I laghi. L'Italia è molto ricca di laghi. Infatti, ci sono circa 500 laghi in tutto, la maggior parte al nord. E il volume dell'acqua è più di 150 chilometri cubici. I laghi del nord hanno origine nei ghiacciai delle Alpi. Le acque del Lago Maggiore sono soprattutto del fiume Ticino. Le isole Borromee, l'isola Madre, l'isola Bella e l'isola dei Pescatori sono sempre piene di turisti. La parte più a nord del lago è Svizzera, come anche in gran parte il lago di Lugano. Il lago di Como, con le acque del fiume Adda, è il più profondo fra i laghi prealpini. Il lago di Garda è famoso per il clima mite, cioè non troppo freddo d'inverno e non troppo caldo in estate, con una vegetazione di tipo mediterraneo, olivi, viti e agrumi, grazie alla sua posizione geografica. I laghi dell'Italia centrale sono per la maggior parte laghi vulcanici, formati nei crateri spenti da antichi vulcani. I laghi di Bolsena, Bracciano e Vico sono tutti e tre laghi vulcanici e sono nel Lazio. Il lago Trasimeno è un lago appenninico, il più grande dell'Italia centrale. È vicino a Perugia e le sue rive sono coperte di una grande varietà di pini, cipressi, viti e olivi, questi ultimi famosi per un olio fra i migliori d'Italia.